YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16:06 minuti e 40 secondi a Radio 24, sempre in diretta il sabato pomeriggio fino alla fine del mese, prima della pausa estiva, per il nostro RadioTube, per le nostre due ore RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, la prima con un sacco di spettacoli, la seconda con tutta l'attualità della rete e dalla rete, ma questa settimana parleremo molto di spettacoli anche nella seconda ora con un sacco di ospiti. Non vi anticipo nulla, tanto tutte le nostre anticipazioni arrivano mano a mano sui social. I miei social sono @MartaCagnola su Twitter e su Instagram, e poi c'è il 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Qual è il primo argomento di questa settimana? Ma io lo introdurrei con una musica. Roberta, sentiamo. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. Vabbè, ma si stanno accendendo telefonini in regia, proprio perché no, accendini non si può, così proprio, no, ma poi quando parte Eminem diventa molto up questo pezzo, vabbè, ovviamente Rihanna, Eminem, ma per gli appassionati di televisione è una canzone che fa pensare a Temptation Island, che è il grande show dell'estate di Canale 5, che è appena ricominciato, dati d'ascolto altissimi, vabbè, una certezza in un panorama televisivo che ha avuto dei grossi scossoni in questo periodo, grazie alla pandemia, grazie al lockdown, tante cose sono cambiate e qualcuno ha fatto un ragionamento molto interessante. Se si parla di dati e di televisione e di analisi, beh, a RadioTube ovviamente abbiamo un nostro carissimo amico che è il professor Massimo Scaglioni. Ciao Massimo! Buongiorno Marta e buongiorno anche agli ascoltatori. No, allora, questa settimana sul Corriere tu ci hai raccontato un po' di quello che è successo quest'anno, ma soprattutto durante il confinamento. Allora, ce l'aspettavamo il boom della TV in streaming, ma con queste proporzioni, Massimo? Ma in parte sì, però poi vedere concretamente i numeri è un'altra cosa, cioè contare veramente quanto la televisione, sia quella tradizionale sia quella appunto in streaming, è cresciuta nei mesi, diciamo, che hanno preceduto poi nei mesi del lockdown, ma anche poi nella cosiddetta fase 2, ecco, questo devo dire che ci ha abbastanza colpito, perché i dati sono stati veramente dei dati molto molto importanti. Diciamo che è passato appena un anno, perché era il 25 giugno del 2019 quando in Italia è nata la Total Audience, cioè l'Auditel che misura anche i dati della TV tradizionale che va in streaming. Beh, in un anno abbiamo capito che, insomma, non era un dato secondario, perché effettivamente anche tantissima televisione tradizionale è passata allo streaming. Sì, assolutamente sì. Quello che abbiamo fatto, la ricerca che abbiamo realizzato con il CERT, che poi abbiamo in parte, diciamo, pubblicato e raccontato sul Corriere della Sera, è un'analisi proprio di un anno, dicevi appunto il 25 giugno del 2019, fine giugno, un anno di analisi, di monitoraggio della cosiddetta total audience. Che cosa vuol dire? Spieghiamolo in maniera semplice, vuol dire tutti quei contenuti televisivi, quindi anche di televisione molto tradizionale, che però non sono visti sul televisore di casa, ma sono visti ormai oggi su tutti quegli apparecchi, quei device che diciamo affollano la nostra vita, che sono i telefonini, i tablet, ma anche, attenzione, sempre di più la Smart TV, perché la Smart TV inizia ad essere utilizzata sempre di più dagli italiani. E ovviamente questa ricerca su questo anno di total audience ha mostrato dei dati interessanti, soprattutto relativi ad una forte crescita del consumo di contenuti televisivi fuori dalla televisione, cioè appunto su device digitali, proprio nei primi mesi del 2020. Numeri molto molto importanti che a mio avviso segnalano un aspetto molto interessante, cioè che i mesi del lockdown sono stati quasi come una sorta di scuola per gli italiani, perché tanti italiani hanno imparato a usare quegli strumenti che magari avevano a disposizione, ma che usavano molto di meno. E questo, una diciamo, scuola, quindi intendi dire che ormai ci sono delle abitudini che si consolidano? Sono proprio cambiate le abitudini, magari prima della fase del lockdown. Una parte importante di telespettatori erano abituati a fruire in maniera molto tradizionale la televisione. Ecco, tanti spettatori hanno iniziato a scoprire delle cose, diciamo, sulla televisione, ovviamente complice tutta la situazione che si è creata, no, nei mesi di marzo, di aprile, cioè stare tanto tempo in casa, avere anche forse un po' più di tempo a disposizione. E dunque riuscire così, no, a scoprire che, per esempio, la televisione, adesso noi siamo un po' addetti ai lavori e sembra una cosa banale, ma insomma le persone hanno scoperto che la televisione non passa soltanto in maniera lineare sul palinsesto, ma io posso veramente oggi recuperare qualunque cosa nelle ore, nei giorni successivi attraverso la rete. E questo dato, questa forte crescita dei cosiddetti stream, cioè del numero dei consumi, no, che passano attraverso la rete, segnala proprio il fatto che c'è stata una vera e propria, quasi una scuola a distanza, cioè gli italiani hanno proprio scoperto una serie di strumenti. Citavo il dato della Smart TV perché è interessante, ovviamente in questi mesi non ci sono stati cambiamenti sostanziali dal punto di vista della tecnologia presente nelle case, ma gli italiani l'hanno usata molto di più. Sì, in tanti abbiamo scoperto magari degli angoli di casa che abbiamo cominciato a usare di più, oppure delle cose che già possedevamo e delle quali abbiamo approfondito l'uso, ed è il caso della Smart TV. Assolutamente, anche perché da un lato, ecco, altro elemento interessante da considerare, il fatto che comunque lo sappiamo, no? Molte produzioni erano ferme, quindi c'era un po' la necessità per intrattenersi, per seguire dei prodotti di fiction, intrattenimento, eccetera, di andarli a recuperare, di andarli a cercare, nel passato, no? Anche, no? Quindi andare a guardare magari appunto una fiction streaming che non si era vista, piuttosto che un certo programma di intrattenimento, e quindi insomma usare tutti questi strumenti. Poi io dietro i numeri, no, mi immagino anche una serie di dinamiche, no, tutta una famiglia all'interno di una casa, e certo da un lato la condivisione, no, del consumo, però dall'altro lato forse anche a volte, no, la voglia di guardarsi, di consumarsi delle cose da soli, no? E allora, per esempio, utilizzare, perché no, un tablet o un computer per guardare quella puntata che si era persa. Quello che una volta era il piccolo televisore in cucina per vedere una, magari in bianco e nero, per vedere un altro programma, adesso invece con il tablet possiamo, con lo smartphone, possiamo anche recuperare quello che ci siamo persi. Massimo, grazie mille al professor Massimo. Poi io ti chiamo grazie, Massimo, perché Marta, siamo amici, però professor, certo, Massimo Scaglioni dell'Università Cattolica, non mica cotica, no? Professore serio. Grazie Massimo, grazie per essere stato con noi, un abbraccio, a presto. Una breve pausa e poi musica. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Radio Tube Social Village. sentito dire che la felicità è un sistema complesso, è un secondo in un giorno, mese, anno, passato tra tutte le tue parole, passato dentro le mie puma nuove, facciamo colazione a Tokyo, poi compriamo i vestiti a New York, io guido e tu dormi, e ogni sosta è un'uscita di strada dal mondo, io parlo e tu sogni, poi trascini l'estate al centro dell'inverno, non ti chiedo di più, torniamo a casa, ti farò una festa, forse non avrò. È tornata ieri con un nuovo album, Bonsai, come fare le cose grandi in piccolo. Questo è il singolo Non avevano ragione i Maya, bentornata a Chiara Galiazzo. Grazie, grazie, ciao ciao a tutti. Chiara, un disco pieno di grazia, di cura, di calma. Pazienza la chiamerei. Ah, pazienza, mi piace, pazienza. Allora, sì, perché effettivamente il disco vuole proprio trasmettere queste cose, la pazienza e la cura delle piccole cose che solamente se curate quando sono piccole, da quando protette, possono diventare più grandi, enormi, non ci sono confini. Ecco, questo è un po' quello che vuole dire il disco. Poi c'è una seconda parte, che se hai un bonsai in valigia, quindi queste due caratteristiche, puoi andare dove vuoi e quindi puoi viaggiare e non ci sono confini né reali e neanche mentali. Ecco, questo è un po' quello a grandi linee, quello che vuole dire questo disco. Dai, parliamo un po' anche di questa cosa dei viaggi. Ci sono molte località, c'è una mappa, ma sono viaggi veri o viaggi dell'anima? Cosa sono? Un po' un mix. Allora, ci sono tutti quanti i posti comunque esistono poi nella realtà veramente. C'è dei posti in cui sono stata davvero, tipo l'Islanda, di cui mi sono innamorata e di cui ho anche girato il video, l'ultima canzone del mondo, quindi sono anche andata a girare i video a volte nei posti. Il Giappone, dove sono capitata per due volte a cantare e che mi ha ispirato Bambola da Ruma, un po' anche mi ha fatto apprezzare ancora di più i bonsai, la pazienza, anche l'altruismo, perché è una cosa che questo... I giapponesi mi hanno insegnato molto, perché lì si sente molto questa cosa. E poi ci sono anche viaggi della mente, tipo Honolulu, perché è un posto che fin da piccola guardo fuori dalla finestra e penso di prendere il razzo come Mago Merlino e di andarci. È un po' il posto dove, sai, uno dice, vabbè, guarda, vorrei essere lì così, non sono qui. Ecco. E quindi, insomma, è un mix. Quando ho finito il disco, poi è proprio... mi è apparso il fatto che più era un disco, ma era anche una mappa dei miei ultimi due anni, un po' una mappa un po' per tutti, anche le persone che mi seguono, io sto cercando di spiegarla molto bene tutta questa cosa, e tra l'altro la sto spiegando track by track, cioè comunque canzone per canzone, perché mi dispiaceva, a volte mi dispiace quando in certi album alcune canzoni non vengono magari spiegate o perché, solo perché non sono singoli. Quindi ho pensato comunque che doveva tutto quanto avere il suo momento, il suo posto, perché così solamente se visto nell'insieme si capiva che cosa veramente volesse dire quest'album. Ecco. Chiara, tu hai detto che bisogna lavorarci molto, cioè bisogna lavorare sulla musica, ma anche lavorare su se stessi. Ci sono molte cose che hai imparato in questi anni, in questo disco? Era inevitabile metterlo dentro, però così tanto non l'ho mai fatto. Cioè, veramente, io anche sui miei social mi racconto, ci sono state delle volte in cui raccontavo una cosa e stavo contemporaneamente facendo una canzone con quell'argomento. Infatti, chi è stato attento l'ha riconosciuto. Tipo quando c'è una canzone in cui dico che attacco il cuore al muro e quel giorno effettivamente l'ho veramente attaccato al muro di camera mia. E tra l'altro non l'ho neanche attaccato con il chiodo e quindi mi potrebbe cascare in testa da un momento all'altro ogni notte. Però io mi prendo la responsabilità di morire per amore. Chiara, però l'amore più importante di cui tu parli in un certo momento è l'amore per se stessi. Si impara tardi, ma quando si impara è un passaggio importante. Allora, perché diciamo che ho capito anche il ruolo delle conseguenze di tutto, no? Allora, tipo, anche Bonsai vuole anche essere un disco che dice amiamo la Terra, amiamo il pianeta, perché se noi amiamo le persone che vivono sopra la Terra, dobbiamo amare anche la loro casa, perché se no è come voler male, no? Ecco, se non la rispettiamo veramente. Stessa cosa, secondo me, un po' per l'amore, perché se io non amo me stesso, non so come si fa, non posso amare veramente nessun altro. Cioè, ho capito anche un po' il ruolo delle conseguenze dei fatti. Forse si capisce quando si cresce, probabilmente. Però, insomma, è un percorso che ho iniziato da Nessun Posto a Casa Mia, dove stavo ancora lavorando su di me. Adesso, diciamo che Bonsai un po' lo considero come prendi quello che hai imparato e gira, e vai a dirlo anche magari. Bello, giusto. Parliamo un po' del fatto che i Mai avevano torto, cioè la fine del mondo non c'è stata, però abbiamo vissuto un momento un po' particolare. Ma poi con su Non avevano ragione i Mai c'è una storia sconcertante, perché dopo mezz'ora che io avevo annunciato il disco e che usciva il singolo, la canzone, tutti i siti, tutti i giornali hanno cominciato a dire che i Mai saranno sbagliati e che il mondo doveva finire 2 giorni dopo. Cioè, una roba qua. Prima che uscisse l'album, ma era appena uscito il singolo. Prima che uscisse il mio disco, dopo 2 giorni che uscisse la canzone, non avevano ragione mai, quindi io devo ammettere che ho preso paura, perché sarei stata una genia del marketing se avessi orchestrato tutto, però ancora onnipotente non sono, quindi è stata una roba assurda, anche perché in Pioggia Viola invece avevo detto che Battisti non c'era su Spotify. E dopo 6 mesi Battisti è arrivato su Spotify, quindi i miei fan non mi hanno cominciato a dire oh, ma cioè, smettila di cantare, cioè di cantare, canta cose più generali, perché veramente, cioè, è una pazza. E quindi, cioè, volevo dire comunque che i Maya, la fine del mondo l'abbiamo interpretata noi, per gli ottimisti si poteva... Si può anche pensare che fosse un cambio energetico anche in positivo. Nell'ultimo periodo possiamo dire che era la fine del mondo? Però bisogna trasformare l'accaduto in un'opportunità, come sempre. E poi però mi ha fatto capire anche un'altra cosa, che è una cosa che stiamo un po' facendo anche con i problemi dell'ambiente, che finché le cose sono lontane non ci riguardano. E in quei 3 mesi, quei 2 mesi che era solo in Cina, nessuno ha pensato che potesse arrivare anche da noi. Ecco, la stessa cosa, secondo me, io sono andata in Islanda a girare l'ultima canzone del mondo, perché quando sono andata ad agosto ho veramente visto che i ghiacciai si stanno sciogliendo. Cioè, a vista d'occhio, di mese in mese, e volevo usare appunto la canzone per veicolare questo messaggio. Secondo me un po' ci può, è un po' sempre lo stesso discorso. A un certo punto anche quella cosa lì la vedremo e arriverà da noi, quindi tanto vale prepararsi oppure cercare di non arrivare al punto che diventi un'emergenza. Speriamo che qualcuno ci rifletta, non tutti, perché sappiamo che è possibile, però qualcuno in più è già qualcosa, perché bisogna iniziare dal piccolo. Però diciamolo che è anche un disco che fa ballare, super energetico. Ah, ma sì, certo, io estrema ballerina. No, vanno bene le riflessioni, ma ci muoviamo anche un po'. Sì, c'è un po' di tutto, chiaramente. Sicuramente rispetto a Nessun Posto a Casa Mia è un disco più up. Io non sarei tantissimo per le canzoni troppo up, però questa dimensione in cui certe canzoni hanno trovato, secondo me è giusta. Chiara, cosa rappresenta per te uscire adesso, in un momento in cui abbiamo preso una rincorsa lunga, poca musica, niente concerti? Beh, questo disco è stato comunque è posticipato, perché non c'è stato... Durante il periodaccio, ormai chiamiamolo periodaccio, non c'era proprio neanche voglia di parlare di altro, perché poi, no, sai, quando ci sono i problemi sono importanti, parlare di tutto il resto ti sembra un po' una cavolata, no? Adesso secondo me però ci siamo un po' ripresi, dobbiamo sempre stare all'occhio, perché questa cosa che siamo un po' troppo sportivi, secondo me, però io tanto sto a Milano, quindi noi dobbiamo ancora tenere la mascherina, però insomma ci sono tanti altri posti dove ormai sembra che non ci sia stato. Secondo me bisogna un attimo stare un po' all'occhio, però appunto mi sembrava giusto anche perché è estate, un'estate strana, e quindi mi sembrava giusto far uscire quest'album ora, e anche perché un momento giusto ormai con questa imprevedibilità della vita non si sa, non sai mai quale possa essere questo momento giusto, e quindi invece di continuare a posticiparlo, anche perché sono anche molto ansiosa di fare cose nuove e, insomma, mi voglio rimettere, però devo comunque in questo capitolo chiaramente mi piaceva condividerlo. Chiara, un grande in bocca al lupo, mi è piaciuto molto questo disco pieno di vita, pieno di crescita. Grazie, sono molto contenta. Grazie a Chiara Galeazzo, un abbraccio grande, ciao Chiara. Grazie mille. Radio Tube Social Village. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni. È il male del giorno, è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma è un volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. È un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Questa è Non sono una signora, e la cover di questa settimana, beh, non devo neanche dirvi che è Giorgia, l'avete capito da soli, è la cover di questa settimana di I Love My Radio. Siamo agli sgoccioli perché siamo al terz'ultimo appuntamento. 45 anni, 45 canzoni, i 45 milioni di ascoltatori delle radio italiane tutte insieme possono decidere qual è la loro canzone del cuore. Si votano tre canzoni sul sito ilovemyradio.it. Noi le stiamo ripercorrendo tutte perché sono una all'anno dal 1975 al 2019. Allora, poco alla volta le stiamo un po' scoprendo, perché così ci aiutiamo a decidere quali tre pezzi votare da qui al 31 luglio. Quindi ci siamo quasi, ci stiamo avvicinando ai giorni nostri. Prima di introdurre il nostro esperto, vabbè, iniziamo subito con il 2005, così entriamo nell'atmosfera delle canzoni di questa settimana. Cosa c'era nel 2005? Santi e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho speso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. 2005, estate dei Negramaro, cominciamo così questo appuntamento con le canzoni di I Love My Radio e con Simone Fattori. Ciao Simone! Ciao Marta, eccoci buon qua l'autore di Suoni nell'etere, e questa settimana abbiamo scoperto che esce anche il libro. Esce ormai, ormai lo sappiamo perché l'hai scritto su Twitter. Non ci si può più nascondere. Beh, l'hai twittato, uscirà il libro a settembre, quindi in tempo per i festeggiamenti. Il 29 settembre, che insomma, parlando di musica. Beh, seduto è in un caffè, fantastico, fantastico. Ma non distraiamoci, 2005 eh sì. Estate Negramaro. Sì, cosa dire di Negramaro che non si sappia già? Il problema è che il 2005 comincia come un anno brutto per Negramaro, perché vanno al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con la canzone che dà il titolo al loro album, ovvero Mentre tutto scorre, e vengono eliminati, cioè non arrivano neanche in finale. Ma in quel momento si accorge di loro il mondo della radio, perché tant'è che nonostante l'eliminazione vincono il premio della sala stampa delle radio di Sanremo, e con questo secondo singolo conquistano letteralmente l'estate, perché stanno 2 mesi primi in classifica, onnipresenti su tutte le radio, colonna sonora del film La Febbre di Alessandro Adalatri con Fabio Volo, con video girato da Silvio Muccino, e questo fa sì anche che questo album, uscito un po' in sordina subito dopo Sanremo, perché Sanremo era andato così, e invece diventa uno degli album più venduti di questo 2005, che comincia a cambiare anche, come dire, vedremo più avanti, il modo di contare, di monetizzare, di dare una misura del successo delle canzoni. Lo vedremo tra poco. Allora passiamo al 2006. Cosa c'era nel 2006? Eccola qua. Nannini, sei nell'anima. Nell'anima, con il tocco, per carità, Gianna Nannini è una grandissima interprete, di quelle che quando cantano una canzone di un altro la personalizzano al punto che non ci se ne accorge. In questo caso la mano di Pacifico invece secondo me un po' si sente, e rimango sempre sconvolto, lo so, ma ogni volta che ne parlo lo riscopro, che questo album del 2006, si chiama Grazie, nel quale c'è Sei nell'anima di Gianna Nannini, è in assoluto l'album più venduto nella sua carriera, che a quel punto insomma aveva già qualche decennio alle spalle, uno contando un po' i successi precedenti, che ne so, si potrebbe immaginare vendite stratosferiche negli anni 80 o negli anni 90, e invece no, è questo Grazie il suo album più venduto, che finisce anche nella colonna sonora di Manuale d'Amore 2 di Giovanni Veronesi, e soprattutto è il disco più venduto di quell'anno e il singolo più passato dalle radio di quell'anno. Vince anche il titolo di album dell'anno al Festival Bar del 2006, quindi l'anno di Gianna Nannini a tutti gli effetti, il 2006. Ah, Festival Bar, che momento di nostalgia, caro Simone. Passiamo al 2007, eccolo qua. Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante figlie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere. Allora, il 2007 è l'anno in cui si rivela Fabrizio Moro con questa Pensa. Simone? Sì, questa volta non c'entra il Festival Bar, ma se non è una e l'altra c'entra il Festival di Sanremo, sì, perché sì, vince il Festival di Sanremo nella sezione giovani e, riprendendo un po' il discorso che facevamo la scorsa settimana, ma nella sezione giovani, quindi non c'entra con le statistiche della scorsa settimana, vince anche il premio della critica, quindi mette d'accordo pubblico e critica nel 2007 Fabrizio Moro al Festival di Sanremo. Questa canzone, per sua stessa ammissione, gli è venuta di getto una notte dopo che aveva assistito in televisione alla fiction dedicata a Paolo Borsellino, tant'è che poi Rita Borsellino parteciperà al suo video girato da Marco Risi con gran parte del cast di Mary per sempre, una citazione di quel film che era, così come la canzone, si potrebbe dire, contro tutte le mafie. 2007 è l'anno di Fabrizio Moro per I Love My Radio. Beh, grande anno per Fabrizio Moro 2007, chi ci sarà nel 2008? Eccolo qua. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te giovanotto. Beh, insomma, siamo nel capitolo ballad, nel capitolo lentoni per il 2008. Simone, cosa diciamo di questa A te? Beh, a parte quello che sanno tutti, e cioè che Jovanotti la dedica a sua moglie Francesca, diciamo che in questo momento preciso, nel 2008, cominciano a cambiare anche i criteri di misurazione di un successo, di un brano, di un album. Oddio, siamo a metà strada, nel senso che questo album nel quale c'è questa A te di Jovanotti, che si chiama Safari, è uno degli ultimi a superare il 500.000 di copie vendute, e quindi già questa è una notizia. Ma da quell'anno si cominciano a misurare anche i download, e grazie ai download Jovanotti con questa canzone sta al primo posto in classifica per 8 settimane, ma detiene anche un altro record che non si poteva fare ai tempi, non si può fare neanche oggi, però sono stati contati anche i download illegali di A te di Jovanotti e sono più di 300.000 in quel periodo, poi magari più avanti se ne sono scaricati ancora di più, quindi siamo veramente a cavallo. Questo è uno di quei pezzi che fanno un po' da spartiacque tra il vecchio modo di misurare un successo e il nuovo, e insomma ha grande successo in tutti e due i casi. E poi c'è la famosa storia del presunto plagio plagio, no, della canzone molto simile di Alejandro Sanz, che si chiama La Primera Persona, e Jovanotti l'ha risolta secondo me da grandissimo signore, dicendo la verità, dicendo non sono io che ho copiato a lui e neanche lui copiato me, perché la canzone è uscita 2 anni prima, ma entrambi abbiamo copiato Bach. E quindi abbiamo, entrambi abbiamo scelto bene ispirandoci, esatto, a Bach. Sono gli unici, non sono gli unici, ma certo, assolutamente, però lo hanno ammesso, diciamo, alla fine si è trovato un accordo in questi termini. Però nel 2008 qualunque radio italiana di qualunque livello, di qualunque latitudine, passava sprombattuto questa A te di Jovanotti. Passiamo al 2009. Il caldo ha squarciato il cielo, dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso a quest'acqua un senso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie, poi di cadere al tappeto. Io e Roberta da una parte all'altra del vetro che cantavamo, io devo stare attenta a non aprire il microfono prima di smettere di cantare, perché sono capace di fare anche questi danni. Simone, chiudiamo con il 2009, Malika Ayane come foglie. Eh sì, che è una canzone che parla di estate, ma anche questa sboccia al Festival di Sanremo. Chiudiamo anche il cerchio, apriamo sempre dei cerchi e li chiudiamo in queste cinquine ogni settimana, perché torna Giuliano Sangiorgi, che è l'autore di questa canzone. Malika aveva già prodotto un album che riesce, viene riedito dopo il Festival di Sanremo con l'aggiunta di questa Come Foglie. Partecipa a Sanremo sotto la grandissima ala protettrice di Caterina Caselli, anche qui ricorre molto spesso il nome di Caterina Caselli, e arriva tra le nuove proposte di Sanremo e arriva al secondo posto con una differenza minima nei confronti della vincitrice di quell'anno, e cioè Arisa. Tra l'altro, da ricordare, questa canzone in quell'anno condotto da Bonolis il Festival di Sanremo, c'erano sì duetti, ma c'erano per le nuove proposte, quindi c'erano grandi nomi che accompagnavano i giovani cantanti, e al fianco di Malika Ayane in quella serata ci fu addirittura Gino Paoli. Grandissimo successo che rilancia le vendite di questo album che porta semplicemente il nome di Malika, e poi grande successo durante l'estate, perché è una canzone che parla d'estate, quindi ci mette un po' a carburare, ma arriva a 300.000 download da questo momento in poi. Anche per la prossima settimana misureremo il successo in download, credo, prima di passare alle visualizzazioni, quindi abbiamo fatto anche un excursus, diciamo così, storico della misurazione del successo delle canzoni. Però ci dobbiamo fermare qui, perché siamo arrivati alla fine della cinquina con il 2009. Grazie a Simone Fattori, autore del blog Suoni nell'Etere, e che poi diventerà anche un libro, l'abbiamo scoperto questa settimana. Simone, ci risentiamo la prossima settimana, ciao! Grazie a voi, a sabato prossimo, ciao a tutti! Viabilità, e poi saremo ancora insieme per parlare di televisione. Radio Tube Social Village. Allora, io questa cosa la dico sempre: un tempo per me arrivava l'estate quando si vedevano le prime pubblicità dei gelati, no? A un certo punto arrivava la pubblicità soprattutto del cuore di panna e diciamo, ah, è arrivata la pubblicità del gelato, allora è estate. Adesso, secondo me, è estate quando cominciamo a sentire questa sigla. Allora, noi vorremmo parlare di te che te che te, però abbiamo qualche problema nel trovare l'ospite, perché abbiamo un appuntamento telefonico con un mio mito, che è Salvo Guercio, che è l'autore di te che te che te, ma mi dicono dalla regia che abbiamo un problema a trovarlo al telefono. Allora, non c'è nessun problema, io vado avanti a parlare, anche perché possiamo magari cominciare a chiamare l'ospite della seconda ora. Anticipiamo l'ospite del il nostro co-conduttore d'eccezione del nostro RadioTube Social Village e vediamo cosa succede. Io intanto sto guardando in regia, c'è Roberta con un telefono, no, c'è addirittura Edoardo Lavezzari con due telefoni e sta parlando con qualcuno, ma non so se sta parlando col telefono sinistro o col telefono destro, quindi non so se sta parlando con il nostro ospite della prima ora o con il nostro ospite della seconda. Vabbè, ma noi lo buttiamo dentro anche il al telefono. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo al telefono? No, vabbè, abbiamo un telefono occupato. Allora, ditemi qualcosa dalla regia, perché posso andare avanti a raccontarvi delle cose, eh? Possiamo cominciare a raccontare delle cose. Chi dei due è caduto? Intanto che, ecco, ma intanto lo recuperiamo il nostro co-conduttore della seconda ora. No, perché ci tenevo tanto, come ogni sabato, a parlare, come ogni sabato, come ogni anno, nel nostro primo sabato di luglio, a parlare di te che te che te, che io amo particolarmente, ma non ci riusciamo. Io vado avanti a parlare, non vi preoccupate, il mio record è 9 ore, io sono stata 9 ore in diretta Radio 24, quindi posso andare avanti senza problemi. Allora, io intanto dovete sapere che vedo Edo e Roberta che ridono con gli occhi, ma avendo le mascherine io non riesco a capire che cosa sta succedendo. Abbiamo Diego Castelli. Diego, vieni a salvarmi, ci sei già. Eccomi, tu. Ma io, eccomi, ti adoro, ho parlato ininterrottamente per 3 minuti. No, dai, sei il co-conduttore della seconda ora, però ti posso già chiamare in causa prima, così parliamo già di un argomento prima, poi se riusciamo a recuperare Salvo Guercio nella seconda ora lo buttiamo in diretta in qualche modo, se no lo sentiamo la prossima settimana, ok? Allora, c'è Roberta che si sta sventolando, ma non so se si sta sventolando per il caldo o perché non sapevamo chi mettere in diretta, ma qua non abbiamo mai paura. Noi comunque andiamo avanti. Diego, allora, a parte il fatto che posso intanto chiederti qualcosa di televisione, perché Diego Castelli, fondatore, cofondatore con Marco Villa di Serial Minds, ma anche channel manager di Iris, Canale 20 e il mio preferito che è 34, però insomma tu so che tu il tuo cocco è più Iris. C'è il canale, sì, che tu... diciamo che abbiamo un trascorso più lungo, diciamo, ecco, così siamo, ecco, insieme, ecco, da più tempo, quindi in questa poligamia, in questa certo, 34 è più recente, esatto, è un figlio o una non lo so come si possono considerare più recente, non lo so. Senti, il palinsesto estivo per te com'è? C'è qualche differenza nei tuoi palinsesti delle tue reti adesso che è estate? Allora, sì e no, nel senso che le differenze di solito si notano di più con le grandi generaliste, naturalmente, perché l'estate, come si sa, dal punto di vista commerciale, pubblicitario, è la stagione, diciamo, meno importante, ho detto così un po' brutta magari, però insomma meno rilevante da quel punto di vista lì, per ovvi motivi di solito, perché la gente se ne va, sono meno persone davanti alla TV e quindi anche gli investimenti pubblicitari tendono ad essere un po' più bassi e di conseguenza ci sono meno programmi che costano tanto, insomma tutta una cosa a catena. Sulle nostre reti tematiche, quindi diciamo più piccoline, cambia relativamente. Ah, cioè d'estate comunque... non c'è proprio una differenza sostanziale. Anche per noi ci sono, sì, ci sono delle differenze. Il paradosso in realtà è che a noi, siccome noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere di ascolto, che ci vengono dati nel mio caso da Publitalia, insomma, perché lavoro a Mediaset, e questi obiettivi spesso nell'estate per noi si alzano. perché il concetto qual è? Siccome sulle reti generaliste grosse ci sono meno cose fortissime, ci sta che noi possiamo alzare un po' il nostro ascolto, si parla di poco. Le fregate un po', desta, riuscite a fregarle un po'. Esatto. Okay. E per cui paradossalmente potremmo addirittura dover mettere cose più forti addirittura. Non succede poi veramente così, perché in realtà comunque quando devi combattere, diciamo per usare una metafora un po' bellica, quando devi combattere contro le corazzate nell'autunno, nella primavera, metti comunque delle robe forti, se no sparisci. Invece in estate si può magari fare qualche esperimento in più, però cioè, io su Iris metto in onda dei film e i film ci sono tutto l'anno, ecco, non c'è un cambiamento di tipologia di programmazione. Non ci sono dei film ritenuti più estivi? Sì, assolutamente sì, ma se tu guardi adesso in questi giorni su Cine 34 stiamo facendo tantissimi film. Cine 34 state facendo tanti film marittimi, anche un po' di film scollacciati. Sì, le cose le facciamo anche prima perché non ci facciamo mai mancare niente. Che te lo piaccio! No, allora ci sono molti, sai che a me molti di questi divertono. E quindi la verità è che io guardo sempre da Gospia e ci sono i consigli di Marco Giusti, che ha sempre per Cine 34 un occhio di. Sì, Marco Giusti ci adora. Esatto, un occhio di riguardo particolare. Sì. Quindi su Cine 34 un po' di film balneari e anche un po' di film. No, io dico scollacciati, però non è detto. Cioè, sono i B-movie. Movies che a volte tra i vari film di genere c'è anche quello un po' più. Sì, ma noi fin dall'inizio del canale comunque abbiamo messo da sempre quella che si chiama la commedia sexy, no? Dai, diciamo quella in quegli anni 70, che quindi è c'è un po' di prurigine, ma sempre anche con dietro l'idea di avere anche un po' di divertimento. Poi in realtà su 34 abbiamo anche qualche ciclo magari di seconda serata che invece è un pochino più più forte. E non mi mandi un messaggio quando ci sono le cose forti, ma dico io, ma no, avverti. Guarda che fra 5 minuti si comincia. Scusa, c'è una roba che non abbiamo tantissimi, quindi insomma mettiamo così, però fanno tutti parte, è comunque tutta roba un po' vintage, perché il canale in questo momento ha abbastanza questa anima qua, e quindi hanno tutti un valore anche di recupero un po' storico di certe pellicole, di certe cose, per cui lo nobilitiamo così, diciamo. Non è solo per far vedere un po' di nudità, però sì, adesso stiamo mettendo un sacco di film estivi, che tra l'altro meno male da un certo punto di vista, che mi occupo sempre di Cine 34, perché prima li mettevamo su Iris, i film italiani, quelli marittimi, e adesso, siccome il 34, diciamo, tra le tematiche Mediaset è il canale italiano, Iris in questo momento di film italiani non ne fa più, a parte rarissime eccezioni. Ci siamo un po' riposizionati e quindi mi spiacerebbe vederli in un posto che non c'entra più niente con me, quei film lì, perché comunque sai, cioè, i film che riportano alla memoria. Diego, noi dobbiamo sentirci tra poco, però non esauriamo tutto, perché diamo la linea al giornale radio, perché vedo che Gigi Donalì si è già alzato dalla scrivania. Diamo la linea al giornale radio delle 17 e poi saremo ancora insieme. Grazie Diego.